nel fuoco. Fuori c'è maremoto, ti scrivo da remoto. Dove siamo finiti, se non siamo appassiti? E non passi da qui, ti troverò in un giardino di una scuola. Se esco mi perdo nei posti vuoti e ti vengo a cercare. Nei posti vuoti e ti provo a chiamare. Nei posti vuoti, anche se la mia voce la spreco e non torni da me come l'eco dei posti vuoti e ti vengo a cercare. Nei posti vuoti e ti provo a chiamare. Nei posti vuoti. Alla fine mi freno, sarà colpa del vuoto. Se ho lo stomaco pieno, sto lontano dai gossip. Poi però vedo i mostri, se per caso mi ti cercherò dentro ad un cinema deserto. Sul ramo non è quella più resistente, le fa solo paura cadere e sentirsi più sola del niente. Dentro ai posti vuoti e ti vengo a cercare. Nei posti vuoti